Capitolo 10 Patty's Place. Il giorno seguente le colse mentre percorrevano con passo deciso il sentiero a lisca di pesce attraverso il minuscolo giardino. Il vento d'aprile popolava di canti di uccelli gli alberi di pino e il boschetto era vivo di petirossi, grossi, paffuti e giocherelloni che percorrevano impettiti i sentieri. Le ragazze suonarono il campanello un po' intimidite e vennero ammesse da una severa e anziana governante. La porta si apriva direttamente su un vasto soggiorno, dove, presso un bizzarro caminetto, sedevano altre due signore, entrambe anziane e dall'aspetto severo. Sebbene l'una dimostrasse 70 anni e l'altra 50, erano praticamente identiche. Ciascuna aveva stupefacenti occhi azzurro pallido, dietro agli occhiali montati in acciaio. Ciascuna indossava un copricapo e uno scialle grigio, ciascuna lavorava a maglia, senza fretta e senza sosta. Ciascuna si dondolava placida su una sedia a dondolo e puntava in silenzio lo sguardo sulle due fanciulle, e proprio a fianco di ciascuna vegliava un grande cane di porcellana bianca, punteggiato di pois verdi, con il naso verde e le orecchie verdi. Subito quei cani catturarono la fantasia di Anna, simili com'erano a due divinità gemelle poste a guardia di Patty's Place. Per alcuni minuti nessuno parlò. Le ragazze erano troppo nervose per trovare le parole e nessuna delle due signore anziane o dei cani di porcellana sembrava incline all'eloquio. Anna ispezionò la stanza con un rapido sguardo. Era deliziosa. Un'altra porta si apriva direttamente sul boschetto di pini e i petirossi saltellavano impavidi proprio sulla soglia. Il pavimento era disseminato di stuoie rotonde intrecciate, del tutto simili a quelle che Marilla aveva confezionato a Green Gables e considerate fuori moda in qualsiasi altro posto, Avon Lee compresa. E qui si trovavano addirittura in Spofford Avenue. Un grande orologio del nonno, tirato a lucido, ticchettava solenne e rumoroso in un angolo. Sulla mensola del camino erano appese deliziose piccole vetrinette dietro le cui porte in cristallo occhieggiavano bizzarri pezzi di porcellana. Alle pareti erano appese vecchie stampe e figure, in fondo c'era una scala sulla cui prima curva si apriva una lunga finestra con un'invitante panchetta ai suoi piedi. Tutto era come Anna aveva immaginato. Poi il silenzio cominciò a farsi troppo pesante e Priscilla ammiccò ad Anna per farle capire che bisognava assolutamente dire qualcosa. Noi abbiamo letto il cartello che dice che la casa è in affitto, azzardò timidamente Anna, rivolta alla signora più anziana, che era evidentemente la signorina Patty Spofford. Oh, sì, disse la signorina Patty. Avevo proprio intenzione di togliere quel cartello oggi. Allora, oh, siamo arrivate troppo tardi, mormorò dispiaciuta Anna. L'avete affittata a qualcun altro? No, abbiamo deciso di non affittarla affatto. Oh, mi piace così tanto, esclamò impulsivamente Anna. Io amo questo posto, pensavo che avremmo potuto averlo. A quelle parole, la signorina Patty posò in grembo il lavoro a maglia, si tolse gli occhiali, li ripulì per bene e per la prima volta guardò Anna come si guarda un essere umano. L'altra signora seguì il suo esempio in maniera così perfetta da sembrarne il riflesso in uno specchio. Lei ama questo posto? Ripeté con enfasi la signorina Patty. Ciò significa che lo ama veramente o vuol dire soltanto che lo trova grazioso? Troppo spesso le ragazze indulgono in esagerazioni di questo tipo, tanto che uno non può mai sapere che cosa intendono veramente. Ai miei tempi non era così. Allora una ragazza non diceva di amare le rape con lo stesso tono usato per dire che amava la propria madre o il Redentore. Anna poté rispondere in piena coscienza. Oh no, lo amo davvero, assicurò gentilmente. L'ho amato dalla prima volta che l'ho visto, lo scorso autunno. Due mie compagne di università e io volevamo una casa per il prossimo anno, anziché rimanere in pensione, e cercavamo un posto in affitto, e quando ho visto che proprio questa casa era in affitto, non volevo credere ai miei occhi per la gioia. Se la ami, puoi averla, disse la signorina Patty. Maria e io abbiamo deciso oggi che dopo tutto non eravamo così ansiose di affittarla, dal momento che non ci piaceva affatto la gente che la chiedeva. Non abbiamo bisogno di affittarla, possiamo permetterci di andare in Europa anche se non lo facciamo. Potrebbe esserci di aiuto, ma io non cederò mai per denaro questa casa a quel genere di persone che sono venute a visitarla. Tu sei diversa. Io credo che tu l'ami davvero e ciò è bene, puoi averla. Se possiamo permetterci di pagare quanto lei chiede, esitò Anna. La signorina Patti indicò la cifra. Anna e Priscilla si guardarono. Priscilla scosse la testa e temo che non siamo in grado di pagare tanto, disse Anna, cercando di dominare il disappunto. Vede, noi siamo soltanto studentesse e siamo povere. Ma quanto pensate di poter spendere? Domandò la signorina Patti rimettendosi a lavorare ai ferri. Anna indicò la cifra. La signorina Patti annuì gravemente. Andrà bene così. Come ho avuto modo di dirvi, non è strettamente necessario per noi affittarla a tutti i costi. Non siamo ricche, ma abbiamo abbastanza denaro per il nostro viaggio in Europa. Non sono mai stata in Europa in vita mia e non ho mai desiderato né voluto visitarla, ma questa mia nipote, Maria Spofford, è venuta voglia di andarci e non è pensabile che una giovane come Maria se ne vada in giro tutta sola. Oh no, naturalmente! Balbettò Anna, vedendo che la signorina Patti parlava solennemente e in tutta onestà. Naturalmente, perciò io devo seguirla per badare a lei e mi aspetto anche di divertirmi. Ho 70 anni, ma non ho perso il gusto della vita. Staremo via per 2 anni, forse anche 3. Ci imbarcheremo in giugno e potremo spedirvi le chiavi, lasciandovi tutto in ordine in modo che possiate installarvi quando vi farà comodo. Ritireremo solo quelle poche cose che più ci stanno a cuore e tutto il resto rimarrà a vostra disposizione. Lascerete i cani di porcellana? Domandò timidamente Anna. Desideri che li lasciamo? Oh sì, sono deliziosi! La faccia della signorina Patti si illuminò di piacere. Ho una grande considerazione per questi cani, disse con fierezza. Hanno più di 100 anni e stanno ai due lati del camino fin da quando mio fratello Aaron li portò qui da Londra 50 anni fa. Spofford Avenue deve il suo nome a mio fratello Aaron, sa? Che uomo prezioso era, disse la signorina Maria parlando per la prima volta. Ah, non se ne trovano di uguali al giorno d'oggi. È stato un bravo zio per te, Maria, disse la signorina Patti con evidente emozione. Fai bene a ricordarlo. Lo ricorderò sempre, dichiarò solennemente la signorina Maria. Mi pare di vederlo proprio in questo istante, in piedi accanto al fuoco, con le mani sotto la marsina, mentre ci sorride felice. La signorina Maria tirò fuori il fazzoletto e si asciugò gli occhi, ma la signorina Patti abbandonò decisa le ragioni del sentimento per approdare a quelle degli affari. Lascerò i cani dove stanno, se promettete di trattarli con ogni riguardo, disse. I loro nomi sono Gog e Magog. Gog è quello a destra e Magog è quello a sinistra. E un'ultima cosa, non avrete nulla da obiettare, spero, al fatto che la casa si chiami Patty's Place. Oh, per nulla. Pensiamo invece che sia una delle sue caratteristiche più belle. Avete buon senso, vedo, disse la signorina Patty in tono di grande soddisfazione. Ci credereste? Tutta la gente che è venuta per affittare la casa voleva sapere se poteva togliere il nome dal cancello per il tempo che sarebbe rimasta qua. Io ho risposto loro senza mezzi termini che il nome se ne sarebbe andato con la casa. Questo è Patty's Place fin da quando mio fratello Aaron me l'ha lasciato per testamento e rimarrà Patty's Place finché io e Maria saremo vive. Quando non ci saremo più, il nuovo proprietario potrà chiamarlo come qualsiasi sciocco nome gli passi per la mente, concluse la signorina Patty con lo stesso tono con cui avrebbe detto Après moi le déluge. E ora, non volete fare un giro della casa e vedere com'è prima di concludere l'affare? L'esplorazione deliziò ulteriormente le ragazze. Di fianco al grande soggiorno c'erano una cucina e una piccola camera da letto. Al piano superiore si trovavano 3 stanze, una spaziosa e 2 minuscole, e Anna si innamorò di una delle piccine, affacciata sugli alberi di pino, e sperò tanto che diventasse la sua. Era tappezzata in pallido azzurro e conteneva un tavolino da toilette di stile vecchiotto con 2 candelieri ai lati dello specchio. C'era una finestrina a vetri romboidali con un sedile sotto le tendine arricciate di mussola azzurra che sarebbe stata un posto ideale per studiare o abbandonarsi ai sogni. Ah, è talmente deliziosa che sono sicura di svegliarmi e di scoprire che è stato tutto un sogno, disse Priscilla come uscirono. La signorina Patty e la signorina Maria non mi sembrano personaggi da sogno, rise Anna. Ti riesci ad immaginarle mentre girano il mondo? Specie con quegli scialli e quei copricapo? Penso che se li toglieranno quando cominceranno a girarlo davvero, ribatté Priscilla. Ma sono convinta che si porteranno ovunque il loro lavoro a maglia. Semplicemente non possono separarsene. Cammineranno su e giù per l'abbazia di Westminster sferruzzando. Ci metterei una mano sul fuoco. Intanto, Anna, noi vivremo a Patty's Place e per di più in Spofford Avenue. Mi sento già ora miliardaria. Io mi sento come una di quelle stelle del mattino che cantano di gioia, disse Anna. Phil Gordon capitò al numero 38 di St. John's quella sera e si buttò sul letto di Anna. Mie care ragazze, sono stanca da morire. Mi sento come quell'uomo senza terra o forse senza ombra. Me lo sono dimenticata. In ogni caso, sto facendo su la mia roba. E suppongo che starai uscendo di testa perché non sai quale impacchettare prima o dove metterla, rise Priscilla. Esattamente. E come mi è riuscito di stipare tutto quanto nelle valigie e la padrona di casa con la cameriera si sono sedute sopra per permettermi di chiudere, mi è venuto in mente che avevo messo dentro un sacco di cose che mi servivano per la cerimonia di consegna dei diplomi. È proprio in fondo, in fondo. Ho dovuto disfare tutto quanto e infilare le mani fino a tuffarmi dentro per un'ora intera prima di riuscire a pescare quanto mi serviva. Avrei anche potuto afferrare qualcosa di simile a quello che cercavo e tirarlo fuori con tutte le mie forze, ma non sarebbe stato lo stesso. No, Anna, non ho imprecato, davvero. Non ho detto che l'hai fatto. Bene, avevi l'aria. Devo però ammettere che i miei pensieri scivolavano pericolosamente verso il profano e poi avevo una specie di raffreddore di testa. Non potevo far altro che starnutire, sospirare e tirar su col naso. Secondo voi non è una sorta di agonia? Regina Anna, di qualcosa per sollevarmi il morale. Ricordati che martedì sera sarai di ritorno nelle Ande di Lalec e di Alonso, insinuò Anna. Phil scosse tristemente il capo. Una bella allitterazione. No, non voglio Alec e Alonso quando ho il raffreddore di testa. Ma che cosa è successo a voi due? Adesso che vi guardo da vicino mi sembrate tutte accese da una sorta di luminescenza interna. È vero, siete addirittura sbarluccicanti. Che vi è successo? Andremo a vivere a Patty's Place l'inverno prossimo, annunciò trionfante Anna. Vivere, bada bene, non a pensione. L'abbiamo affittata. Stella Maynard verrà con noi e si porterà la zia che accudirà la casa. Phil balzò in piedi, si soffiò il naso e cadde in ginocchio di fronte ad Anna. Ragazze, oh, ragazze, lasciate che venga anch'io, sarò talmente buona. Se non c'è posto per me, mi contenterò di dormire nella cuccia del cane nel frutteto. C'è, l'ho vista. Concedetemi soltanto di venire con voi. Alzati, occhietta. Non solleverò le mie stanche ossa. Fino a che non mi assicurerete che potrò stare con voi il prossimo inverno. Anna e Priscilla si guardarono l'un l'altra, poi Anna disse dolcemente: Phil, tesoro, saremo felici di averti con noi, ma dobbiamo parlarci chiaro. Io sono povera. Stella Maynard è povera, Priscilla è povera. La nostra conduzione della casa sarà semplice, la nostra tavola priva di ricercatezze. Dovresti vivere come noi, ora. Tu sei ricca e lo testimonia la pensione in cui sei vissuta finora. Oh, ma badate a queste cose! Domandò tragicamente Phil. È meglio una magra cena a base di erbucce con le tue compagne che un bue grasso in una pensione solitaria. Non credo di essere solo uno stomaco, ragazze. Entrerò nell'ordine di idee di vivere a pane e acqua. Solo un velo sottile di marmellata, se mi lascerete venire con voi. E allora, continuò Anna. Ci sarà un mucchio di lavoro da fare. La zia di Stella non può far tutto da sola. Tutte noi ci aspettiamo di avere delle incombenze fisse. Ora tu non sai fare lavori di fatica, come io non so filare, concluse Filippa. Ma imparerò a fare tutto. Tanto per cominciare posso farmi il letto. E ricorda che, anche se non sono in grado di cucinare, posso mantenermi calma, è già qualcosa, e non brontolerò mai sul tempo. E ancor di più, oh, per favore, non ho mai voluto niente con tanta intensità in tutta la mia vita, e questo pavimento è spaventosamente duro. C'è ancora una cosa, temporeggiò risoluta Priscilla. Tu, Phil, Come tutta Redmond sa, ricevi amici praticamente ogni sera. Ora, questo non è possibile a Patty's Place. Abbiamo deciso che solo il venerdì avremo la nostra serata di visite. Se verrai con noi dovrai accettare questa regola. Bene, non penserete che ci pianga sopra, vero? Mi fa un gran piacere, invece. Mi rendevo conto già da un pezzo che anch'io avrei dovuto porre delle regole di questo tipo e attenermici. Il pensiero di poter scaricare su di voi le responsabilità decisionali mi sorride oltre misura. Se non mi permetterete di entrare nella vostra cosca, morirò certo di disappunto e tornerò sulla terra a perseguitarvi. Mi piazzerò proprio sulla soglia di Patty's Place e non potrete fare un passo fuori o dentro senza incappare nel mio spettro. Anne e Priscilla si scambiarono nuovamente degli sguardi eloquenti. Bene, sentenziò Anna. È chiaro che non possiamo prometterti una risposta affermativa prima di aver consultato Stella, ma non credo che avrà nulla da obiettare e per quanto riguarda noi, puoi venire e sentirti la benvenuta. Se ti stancherai della nostra semplice vita, potrai lasciarci in tutta tranquillità e nessuno ti farà domande, soggiunse Priscilla. Phil balzò in piedi, attaccandosi al collo di entrambi con espressioni di giubilo e se ne andò festante. Spero che andrà tutto bene, si augurò saggiamente Priscilla. Possiamo sempre dare una spintarella perché ciò accada, auspicò Anna. Sono convinta che Phil si troverà benissimo nella nostra casina felice. Oh, sarà delizioso avere Phil intorno e vivere là tutte insieme, e non è da trascurare il fatto che più siamo, meno si assottiglieranno le nostre finanze. Ma come sarà la convivenza con lei? Devi vivere almeno 2 stagioni con qualcuno per capire se è convivibile o no. Beh, dovremmo sottoporci alla stessa prova tutte quante finché dura. Dovremmo cercare di essere comprensive e di vivere e lasciar vivere. Phil non è un egoista, anche se è un po' scriteriata, e sono sicura che ce la passeremo benissimo a Patty's Place.